Meglio tacere, perché il mondo è uno sbirro. Cosa parlare a fare, tanto non serve dirlo. Vedi come sto, non è difficile capirlo. Meno male che il futuro bisogna costruirlo. Più passano i giorni e più ho una vita depressa. Non c'è il principe azzurro, non sono una principessa. Punto sul concetto, ma la musica è la stessa. Se faccio schifo, dimmi chi me lo confessa. Mi accorgo di sta roba, col passare del tempo. Mi dici mille cose, non fai un ragionamento. Se va tutto storto, aspetto che passa il momento. Se non passa mi sembra ovvio che mi lamento. In cerca della perfezione, gola dice aspetta. La perfezione inesiste in ogni faccia della terra. Non lo sai, ma il pensiero mi sotterra. Perché fa così male che preferisco una sberla. Tutti lo credono, troppi lo vogliono. Molti ci muoiono, sbagliati ci vivono. Per la paura nel cercarlo, altri lo seguono. Per il maledetto destino nella quale cedono. Tutti lo credono, troppi lo vogliono. Molti ci muoiono, sbagliati ci vivono. Per la paura nel cercarlo, altri lo seguono. Per il maledetto destino nella quale cedono. Ho sognato, sperato, pregato. Ho fatto in modo che il mio destino fosse cambiato. Forse ho sbagliato, forse non ci ho pensato. Che nella vita è dura avere un buon risultato. A te va tutto bene perché vivi nelle nuvole. Che cazzo c'entra dire che ancora sono giovane. E aspetto il meglio che forse un giorno verrà. Ma la sofferenza come l'amore non è età. Si dice che chi si accontenta gode. Io mi accontento e godo, ma dove? Sarò così svampita che forse vivo su Giove. Non viverci in sereno perché dentro di me piove. Ci sono tante cose che vorrei, che chiederei. Chiedere troppo lo so che non potrei. Lascio volare tutto da solo, aspetto che venga. E quando avrò bruciato attendo che il fuoco si spenga. Tutti lo credono, troppi lo vogliono. Molti ci muoiono, sbagliati ci vivono. Per la paura nel cercarlo, altri lo seguono. Per il maledetto destino nella quale cedono. Tutti lo credono, troppi lo vogliono. Molti ci muoiono, sbagliati ci vivono. Per la paura nel cercarlo, altri lo seguono. Per il maledetto destino nella quale cedono. Sono scottante così che le lacrime si asciugano. Le mie emozioni non so nemmeno dove vadano. Guardo le stelle nella speranza che cadono. Sperando che esistano ancora persone che amano. Voglio i miei sogni e lo dico da un pezzo. Guarda caso per sognare aumentano il prezzo. Devo lavorare allora abbandono lo studio. Ora per realizzare un sogno devo fare un mutuo. Per te è normale avere una vita instabile. Per sfortuna non vivo nel mondo delle favole. Non vivo nemmeno dentro un cartone. Ho troppi casini e non trovo una soluzione. Devo mettere in ordine i pensieri, quelli perenni. Forse ci vorranno secoli o forse millenni. Solo per un attimo ho tutto ordinato. Perché tutto scombinato a tempo indeterminato. Tutti lo credono, troppi lo vogliono. Molti ci muoiono, sbagliati ci vivono. Per la paura nel cercarlo, altri lo seguono. Per il maledetto